ad alta voce. Anita Caprioli legge Patricia Highsmith. La puttana patentata, ovvero la moglie. Sara aveva sempre esercitato da dilettante, ma a 20 anni si sposò, il che fece di lei una professionista. Oltretutto il matrimonio ebbe luogo in chiesa, davanti a familiari, amici e vicini, forse addirittura con Dio per testimone, dato che di certo era stato invitato. Lei era in bianco, anche se non proprio vergine, visto che era incinta di 2 mesi, e non dell'uomo che stava sposando di nome Sylvester. Ora poteva diventare una professionista, con la protezione della legge, l'approvazione della società, la benedizione del clero e il sostegno finanziario garantito dal marito. Sara non perse tempo. Il primo fu l'uomo venuto a leggere il contatore del gas. Poi toccò a quello venuto a pulire i vetri delle finestre, le cui prestazioni richiedevano un numero variabile di ore a seconda di quello che Sara diceva a Sylvester sul grado di sporcizia dei vetri medesimi. Sylvester arrivò a pagare 8 ore di lavoro più qualche straordinario. A volte succedeva che l'uomo fosse già in casa quando Sylvester usciva per andare al lavoro e ancora lì quando tornava la sera. Ma quelli erano pesci piccoli e Sara fece progressi arrivando all'avvocato di famiglia. Il che voleva dire niente parcelle per i servizi prestati alla famiglia di Sylvester Dillon, ormai composta da 3 membri. Sylvester era orgoglioso del piccolo Edmund e arrossiva di piacere ai commenti degli amici sulla somiglianza tra lui e il bambino. Gli amici non mentivano, dicevano semplicemente quello che ritenevano di dover dire e che avrebbero detto a qualunque padre. Dopo la nascita di Edmund, Sara smise di avere rapporti sessuali con Sylvester, non che ne avesse avute molti prima, dichiarando «Uno è abbastanza, non credi?» oppure diceva «Sono stanca» o «Fa troppo caldo». Per dire le cose come stavano, il povero Sylvester era ormai buono solo a pagare i conti. Non era ricco, ma stava bene. E poi era piuttosto intelligente e presentabile, non abbastanza aggressivo da diventare un problema, e beh, questo era pressappoco quanto bastava a far contenta Sara. Riconosceva vagamente di aver bisogno di un protettore e di un accompagnatore. E chissà perché era un vantaggio poter scrivere Mrs. in fondo alle lettere. Sara si godette 3 o 4 anni di trastulli con l'avvocato, poi col dottore, poi con un paio di mariti scavezzacolli della loro cerchia sociale, più alcune scappatelle di un paio di settimane ciascuna con il padre di Edmund. Questi uomini frequentavano la casa durante il pomeriggio, dal lunedì al venerdì per lo più. Sara era molto prudente e insisteva, dato che la facciata della casa era visibile dalle finestre di molti vicini, perché i suoi amanti le telefonassero dai dintorni prima di andare da lei. In questo modo poteva dir loro se l'orizzonte era abbastanza sgombro da permettere una visitina. L'una e mezza del pomeriggio era il momento migliore, perché la maggior parte della gente era occupata a far colazione a quell'ora. Dopotutto per Sara erano in gioco vitto e alloggio, e Sylvester stava diventando irrequieto, se non proprio sospettoso. Durante il 4° anno di matrimonio, Sylvester cominciò a far storie. Le profferte amorose che aveva fatto alla segretaria, e anche alla ragazza che lavorava dietro il banco del suo negozio di forniture per uffici, erano state cortesemente ma fermamente respinte, e il suo io era frustratissimo. «Non possiamo provare ancora?» era il ritornello di Sylvester. Sara contrattaccò come una dozzina di battaglioni coi fucili pronti a sparare da anni. Si sarebbe creduto che fosse lei quella a cui era stata recata un'offesa. «Non hanno forse creato una bella casa per te? Non sono forse una brava ospite? La migliore, a detta dei nostri amici. Ho trascurato Edmund? Ho mai mancato di farti trovare un pasto caldo al tuo ritorno?» «Vorrei che lasciassi perdere il pasto caldo ogni tanto e pensassi a qualcos'altro», avrebbe voluto dire Sylvester, ma era troppo ben educato per lasciarsi sfuggire parole del genere. «E poi ho buon gusto», aggiunse Sara a mo' di raffica finale. «I nostri mobili non sono solo belli, ma anche ben tenuti. Non so che altro potresti aspettarti da me». I mobili erano così lucidi che la casa sembrava un museo. A Sylvester mancava spesso il coraggio di sporcare i portacenere. Avrebbe preferito meno ordine e un po' di calore. Ma come poteva dire una cosa del genere? «Ora vieni a mangiare qualcosa», disse Sara più dolcemente, tenendogli una mano in un impeto di comunicativa senza precedenti nel corso dei molti anni passati. Le era venuta un'idea, aveva un piano. Sylvester prese la mano tutto contento e sorrise. Si servì una seconda volta di tutte le pietanze che lei gli offrì con insistenza. La cena era come al solito buona perché Sara era una cuoca eccellente e meticolosa. Silvestre sperava anche in un lieto fine della serata, ma in questo rimase deluso. L'idea di Sara era di uscire da Silvestre col cibo, con la gentilezza, in un certo senso con il dovere coniugale. Avrebbe preparato piatti sempre più elaborati. Silvestre aveva già un po' di pancia e il dottore l'aveva avvertito di non eccedere col cibo, di fare un po' di esercizio, eccetera. Ma Sara sapeva abbastanza sul controllo del peso da capire che l'importante era quello che si mangiava, non quanto esercizio si faceva. E Silvestre adorava mangiare. La situazione era ideale, pensò Sara, e comunque cosa aveva da perdere a tentare? Cominciò a usare condimenti più ricchi, grasso di oca, olio d'oliva, a preparare teglie di pasta al forno, a imburrare i sandwich in modo più consistente, a lodare l'abitudine di bere latte, una benefica fonte di calcio per Silvestre, che perdeva i capelli. Silvestre mise su 10 chili in 3 mesi. Il suo sarto dovette modificargli tutti i vestiti, poi fargliene di nuovi. «Tennis, tesoro», disse Sara preoccupata, «quello di cui hai bisogno è un po' di esercizio». Sperava che avesse un attacco di cuore. Ormai Silvestre pesava più di 90 chili e non era un uomo alto. Cominciava già a respirare affannosamente al più piccolo sforzo. Il tennis non servì a niente. Silvestre era abbastanza saggio da limitarsi a restarsene fermo in un angolo del campo e lasciare che la palla rimasse in un forse era troppo pesante per fare altrimenti. Se la palla non gli arrivava, non si metteva certo a correre dietro per colpirla. Così una calda giornata di sabato, in cui l'aveva come al solito accompagnato al tennis, Sara finse uno svenimento. Mormorò che voleva essere trasportata alla macchina. Silvestre ce la mise tutta, ansimando perché nemmeno Sara era precisamente un peso piuma. Disgraziatamente, per i piani di Sara, 2 uomini arrivarono di corsa dal club per aiutare Silvestre, e Sara venne issata sulla macchina con molta facilità. Arrivati a casa con la porta d'ingresso ben chiusa, Sara tornò a svenire e mormorò concitatamente in un sussurro che voleva essere portata di sopra e messa a letto. Il letto, un matrimoniale grande, distava 2 piani di scale. Silvestre la prese in braccio pensando che non doveva certo offrire uno spettacolo romantico mentre saliva un gradino dopo l'altro ansimando e inciampando per andare a deporre l'amata sul letto. Alla fine fu costretto a issarsela su una spalla e anche così cadde a faccia in giù appena arrivata al pianerottolo del secondo piano. Respirando affannosamente rotolò via da sotto il corpo inerte di lei e cercò di nuovo, questa volta limitandosi a trascinarla sul tappeto del corridoio, di portarla fino alla camera da letto. Fu tentato di lasciarla là per terra fino a quando non fosse riuscito a riprendere fiato. Lei non dava segni di vita, ma sapeva già come l'avrebbe presa Sara se si fosse svegliata nel corso dei prossimi secondi e avesse scoperto che lui l'aveva lasciata per terra. Silvestre si chinò di nuovo per ricominciare a trascinare Sara, mettendoci tutta la forza di volontà che gli era rimasta perché di certo di forza fisica non ne aveva più. Gli facevano male le gambe, la schiena lo stava uccidendo e si meravigliò di riuscire a issare quel peso, quasi 70 chili, sul letto matrimoniale. «Oh, issa!» disse Silvestre e indietreggiò barcollando con l'intenzione di lasciarsi andare su una poltrona. Ma la poltrona aveva le rotelle e scivolò all'indietro di parecchi centimetri, mandandola a finire sul pavimento con un tonfo che fece tremare la casa. Aveva sentito una terribile fitta al petto. Si premette un pugno sul cuore e digrignò i denti per il dolore. Sara restò a guardarlo. Era sdraiata sul letto. Non fece niente. Aspettò e aspettò. Si addormentò quasi. Silvestre gemeva, chiamava aiuto. Che fortuna, pensò Sara, che Edmund fosse fuori con la babysitter per il pomeriggio invece che in casa. Dopo 15 minuti circa, Silvestre non si mosse più. Finalmente Sara si addormentò. Quando si svegliò scoprì che Silvestre era proprio morto e che si stava già raffreddando. Allora andò a telefonare al medico di famiglia. Sara la passò liscia. La gente fece commenti stupiti sul fatto che solo poche settimane prima il povero Silvestre fosse parso in ottima salute, con le guance colorite e tutto il resto. Sara ricevette una bella sommetta dall'assicurazione, la pensione e dimostrazioni di simpatia da parte di persone che le assicurarono che non doveva avere rimorsi, perché aveva dato a Silvestre il meglio di sé. Gli aveva creato una casa accogliente, gli aveva generato un figlio, si era in breve dedicata completamente a lui, rendendogli la vita breve, purtroppo, per quanto possibile felice. Nessuno disse «un delitto perfetto». Questa era l'opinione privata di Sara, che adesso poteva anche permettersi di riderci sopra. Ora poteva diventare la vedova allegra. Esigendo piccoli favori dai suoi amanti, senza parere naturalmente, le sarebbe stato facile conservare o addirittura migliorare il tenore di vita di cui aveva goduto quando Sylvester era ancora in vita. E poteva ancora scrivere Mrs. in fondo alle lettere. La donna oggetto. Ci sono moltissime ragazze come Mildred. Vagabonde, riescono sempre ad avere un tetto sopra la testa, per la maggior parte del tempo il soffitto di una camera d'albergo, a volte quello di un piede a terra a scapolo, della cabina di New York se sono fortunate, di una tenda o di una roulotte nelle peggiori dei casi. Ragazze del genere sono accessori da letto, il tipo di oggetto che si acquista come una borsa dell'acqua calda, un ferro da siero portatile, un rasoio elettrico, un qualunque piccolo lusso dell'esistenza. Sono avvantaggiate se sanno cucinare un po', ma di certo non c'è bisogno che sappiano parlare in nessuna lingua. Sono anche intercambiabili, come la moneta contante o gli assegni circolari. Il loro valore può salire o scendere a seconda dell'età e dell'uomo che le possiede al momento. Mildred la considerava una vita dignitosa, quella, e se intervistata in proposito, avrebbe detto con quel suo modo di fare sincero e coscienzioso: «È interessante». Mildred non rideva mai e sorrideva solo quando pensava di dover essere carina. Era alta 1,65 m, biondiccia piuttosto snella, con una faccia graziosa e priva di espressione e due grandi occhi azzurri sempre sgranati. Ancheggiava più che camminare, con le spalle un po' curve, i fianchi leggermente protesi in avanti, come le migliori indossatrici aveva letto da qualche parte. Questo le conferiva un'aria pacifica, languida. Quando camminava sembrava una sonnambula. Era un po' più vivace a letto e questo fatto passava da una bocca all'altra, oppure tra uomini che non parlavano la stessa lingua veniva divulgato accenni e sorrisetti. Mildred conosceva queste serie e bisogna dire, a suo onore, che ci si dedicava con molta diligenza. Aveva bazzicato la scuola fino a 14 anni, quando tutti, compresi i suoi genitori, avevano ritenuto insensato farla continuare. Si sarebbe sposata presto, pensavano suo padre e sua madre. Invece Mildred scappò di casa, o meglio, venne portata via da un rappresentante di automobili prima di riuscire a compiere 15 anni. Sotto le direttive del rappresentante scrisse a casa alcune lettere rassicuranti, dicendo di aver trovato lavoro come cameriera in una città vicina e un appartamento che divideva con altre due ragazze. A 18 anni Mildred era già stata a Capri, a Città del Messico, a Parigi, perfino in Giappone e parecchie volte in Brasile, dove capitava spesso che gli uomini in fuga da qualcosa l'abbandonassero. Era stata il secondo premio, per così dire, di un candidato alla presidenza degli Stati Uniti, la notte della vittoria. A Londra era stata data in prestito a uno sceicco, che l'aveva recompensata con un calice d'oro piuttosto stravagante, che in seguito era andato perduto, non che il calice le piacesse, ma doveva valere una fortuna e Mildred ci pensava spesso con rimpianto. Se le veniva voglia di cambiare uomo, bastava che andasse in un bar di lusso a Rio o da qualche altra parte da sola e ne raccattasse uno qualunque, di solito più che contento di mettere nel racconto spese e sbagliare il viaggio di ritorno in America o in Germania o in Svizzera. A Mildred importava pochissimo di stare in un posto o nell'altro. Una volta venne dimenticata al tavolo di un ristorante come un accendino. Mildred se ne accorse, ma Herb no. Per circa 30 minuti, durante i quali la ragazza si mostrò vagamente preoccupata, anche se in realtà non se la prendeva mai molto di solito, si voltò verso l'uomo che le sedeva accanto. Era una colazione d'affari, 4 uomini e 4 ragazze, e disse: «Credevo che Herb fosse andato alla toilette». «Che cosa?» L'uomo massiccio seduto accanto a lei era un americano. «Oh, tornerà! Oggi abbiamo dovuto discutere di una faccenda piuttosto spiacevole, capisce? Herb è un po' alterato». L'americano sorrise con aria comprensiva. Aveva accanto la sua ragazza raccattata la sera prima. Le ragazze non avevano aperto bocca per tutta la durata della colazione, se non per mangiare. Herb tornò a prendere Mildred e andarono nella loro stanza d'albergo. Herb era cupissimo perché la trattativa gli era andata male. Quel pomeriggio gli abbracci di Mildred non riuscirono a sollevare lo spirito o l'ego di Herb, e la sera stessa la ragazza venne adattata. Il suo nuovo protettore si chiamava Stanley, 35 anni circa, grassoccio come Herb. Lo scambio avvenne all'ora dell'aperitivo, mentre Mildred sorseggiava il solito Alexander con la cannuccia. Herb si prese la ragazza di Stanley, una bionda cretina con i capelli arricciati artificialmente. Anche il colore dei suoi capelli era artificiale, notò Mildred, che era espertissima di cose come trucco e pettinatura. Mildred tornò in fretta all'albergo a fare i bagagli, poi passò la serata e la notte con Stanley. Lui non le parlò quasi mai, ma sorrise molto e fece un sacco di telefonate. Questo accadeva a Des Moines. Con Stanley Mildred andò a Chicago, dove l'uomo aveva un appartamentino, più una moglie e una casa da qualche parte, come spiegò. Mildred non era preoccupata per la moglie. Una volta sola in vita sua le era capitato di avere a che fare con una moglie difficile che aveva fatto irruzione in un appartamento. Mildred aveva brandito il coltello dell'arrosto e la moglie era scappata. Di solito le mogli si dimostravano semplicemente sorprese, poi torcevano il naso e se ne andavano con l'ovvia intenzione di rifarsi sui mariti. Stanley stava fuori tutto il giorno e non le passava molti soldi, il che era seccante. Mildred non aveva intenzione di stare a lungo con Stanley, se possibile. Aveva cominciato a depositare denaro in un libretto di risparmio da qualche parte, una volta, ma aveva perso il libretto in banca. Ma prima che riuscisse a trovare il modo di sganciarsi da Stanley, Mildred si ritrovò barattata una seconda volta. Fu uno shock per la ragazza. Un economista avrebbe tratto delle conclusioni precise su una moneta trattata a quel modo, le stesse che trasse Mildred. Si rese conto che Stanley ci guadagnava nello scambio con l'altro uomo, un certo Lewis, a cui toccò Mildred, ma tuttavia, e aveva solo 23 anni. Mildred sapeva che quella era un'età pericolosa e che avrebbe fatto meglio a giocare bene le sue carte da quel momento in poi. 18 anni era l'età migliore per quel lavoro. Lei l'aveva già superata da 5. E cosa ne aveva ricavato? Un braccialetto di diamanti che gli uomini sbirciavano con cupidigia e che per ben due volte aveva dovuto riscattare dal banco dei pegni con l'aiuto di qualche nuovo bastardo. Una pelliccia di visone, stessa storia. Una valigia con un paio di vestiti eleganti. Che cosa voleva? Beh, voleva continuare a fare quella vita, ma con un maggior senso di sicurezza. Che cosa avrebbe fatto se si fosse ritrovata davvero con le spalle al muro? Se buttata fuori, invece che barattata, fosse andata in un bar e non fosse riuscita a raccattare nessuno per più di una notte? Beh, aveva l'indirizzo di alcuni vecchi amici ai quali avrebbe potuto scrivere, minacciandoli di fare nomi e cognomi nelle memorie che stava scrivendo e per cui un editore le aveva già versato un anticipo. Ma Mildred aveva parlato con ragazze di 25 anni e più, che avevano usato la stessa minaccia per ottenere una pensione a vita, e solo una di esse era riuscita a spuntarla. Di solito dicevano alle ragazze, l'uomo si limitava a ridere o a dire «avanti, fa pure», invece di pagare. E così per qualche giorno Mildred si adattò ad accontentare il grasso Lewis. Lewis aveva un bel gatto soriano, del quale Mildred si innamorò subito, ma il suo appartamento era composto da una sola stanza e cucinotto, e squallido. Lewis aveva un buon carattere, ma era taccagno. Mildred trovava anche imbarazzante doversi nascondere quando usciva a cena con lui, cosa che non succedeva spesso perché Lewis si aspettava che cucinasse e anche che pulisse un po', e sentirsi chiedere di starsene buona, in silenzio, nel cucinotto, tutte le volte che Lewis riceveva qualcuno con cui doveva discutere di affari. Lewis era un commerciante all'ingrosso di pianoforti. Mildred preparò il discorsetto che aveva intenzione di fargli al più presto. «Spero che tu ti renda conto che non hai nessun ascendente su di me, Lewis. Non sono abituata a lavorare io, nemmeno a letto». Ma prima che avesse l'occasione di fare il suo discorsetto, che alla fine sarebbe sfociato in una richiesta di soldi, dato che Mildred sapeva che Lewis ne aveva parecchi da parte, venne ceduta a un giovane rappresentante di commercio. Dopo che ebbero finito di cenare in un posto dove non si correva il rischio di incontrare conoscenti, Lewis disse di punto in bianco: «Dave, perché non porti Mildred a casa tua per il bicchiere della staffa? Io devo alzarmi presto», con una strizzata d'occhio. Dave sorrise beato, era carino, ma abitava in una roulotte, santo Dio. Mildred non aveva nessuna intenzione di diventare una zingara, di farsi il bagno con la spugna e di sopportare il cesso portatile. Era abituata ai grandi hotel con servizio in camera giorno e notte. Dave poteva anche essere giovane e ardente, ma a Mildred non importava un bel niente di queste cose. Gli uomini dicevano che le donne erano tutte uguali, ma secondo lei gli uomini lo erano ancora di più. Volevano tutti la stessa cosa. Le donne almeno volevano pellicce, profumi costosi, vacanze alle Bahamas, crociere, gioielli, un bel po' di cose in effetti. Una sera, mentre era con Dave a una cena d'affari, Dave era un commerciante di pianoforti, anche se Mildred non ne aveva mai visto uno nella roulotte, Mildred fece la conoscenza di un certo Mr. Zupp. Sam di nome, che aveva invitato Dave a cena in un ristorante di lusso. Ispirata da tre Alexander, Mildred civettò sfacciatamente con Sam, che non mancò di rispondere sotto il tavolo, e alla fine annunciò semplicemente che sarebbe andata con lui. Dave restò a bocca aperta e cominciò a protestare, ma Sam, più vecchio e sicuro di sé, insinuò con molta diplomazia che si fosse la bella mamma qui avrebbe fatto una scenata, e così Dave si calmò. Un grosso miglioramento. Sam e Mildred volarono subito a Parigi, poi ad Amburgo. Mildred ebbe un sacco di vestiti nuovi. Le stanze d'albergo erano favolose. Mildred non sapeva mai da un giorno all'altro in quale città sarebbero andati. Ecco un uomo le cui memorie dovevano valere qualcosa. Se solo fosse riuscita a scoprire cosa faceva. Ma quando parlava al telefono, Sam lo faceva in codice, o in yiddish, o in russo, o in arabo. Mildred non aveva mai sentito tante lingue strane in vita sua. E non riuscì mai a scoprire cosa vendesse Mr. Zupp. La gente di solito vendeva qualcosa, no? Oppure comperava. Ma per comperare ci volevano i soldi, no? E dove li prendeva i soldi Sam Zupp? Qualcosa diceva Mildred che era quasi arrivato per lei il momento di ritirarsi. Sam Zupp sembrava l'inviato della provvidenza. Lavorò su di lui cercando di farlo in modo sottile. «Non mi dispiacerebbe sistemarmi da qualche parte», disse. «Non sono il tipo che si sposa io», rispose lui con un sorriso. Non era questo che intendeva dire Mildred. Lei voleva solo un bel gruzzoletto, poi Sam poteva anche dirle addio se preferiva. Ma il bel gruzzoletto non sarebbe durato in eterno. Le sarebbe toccato di ricominciare tutto da capo con altri Sam Zupp. Il cervello di Mildred vacillò per lo sforzo di immaginare un futuro così lontano, ma non c'era dubbio. Doveva approfittare di Mr. Zupp finché stava con lui. Queste idee o piani fragili come ragnatele vennero spazzati via dagli eventi dei giorni che seguirono la conversazione sopra riportata. All'improvviso Sam Zupp si diede alla fuga. Per alcuni giorni furono sedili separati sugli aerei, perché nessuno doveva sapere che viaggiavano insieme. Una volta vennero inseguiti dalle sirene della polizia, mentre l'autista correva sterzando come un matto su per una strada alpina diretto a Ginevra. O forse a Zurigo. Mildred era nel suo elemento. Assisteva Sam con fazzoletti bagnati di acqua di colonia. Gli offriva i sandwich o jambon che teneva sempre in borsetta per lui o la fiaschetta del brandy quando gli venivano le palpitazioni. Mildred immaginava di essere una delle eroine che aveva visto nei film, buoni film, ragazze che scappavano coi loro uomini inseguiti da una polizia cattiva e dotata di armi slealmente superiori. I suoi sogni di gloria a occhi aperti ebbero diventata. Probabilmente fu in Olanda, per metà del tempo Mildred non sapeva dove si trovava, che la macchina con autista si fermò all'improvviso con grande stridore di freni, proprio come nei film. E Mildred venne avvolta come una mummia dall'autista, aiutato da Sam, in un rigido e pesante telone cerato, e poi legata con solide corde. Venne buttata in un canale, dove annegò. Nessuno sentì più parlare di Mildred. Nessuno la ritrovò mai. Se l'avessero trovata non ci sarebbe stato modo di procedere immediatamente all'identificazione, perché Sam le aveva tolto il passaporto e la borsetta era rimasta nella macchina. Mildred era stata buttata via, come si fa con gli accendini vuoti, come si fa coi tascabili gialletti che pesano in valigia. La scomparsa di Mildred non venne mai presa sul serio da nessuno. La ventina di persone o giù di lì che la conoscevano e la ricordavano erano sparse per il mondo e pensarono semplicemente che fosse andata a vivere in qualche altro paese o città. Un giorno, pensavano, si sarebbe rifatta viva in qualche bar o nella hall di qualche albergo. Dopo un po' la dimenticarono. Anita Caprioli ha letto Patricia Highsmith. A cura di Federica Navorolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it